Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno cari radioascoltatori. Bene, questa mattina parleremo di un argomento di grande attualità, perché proprio ieri i NAS hanno annunciato con un'operazione voli pindarici di aver sequestrato moltissimi additivi, hanno diciamo fatto irruzione in 98 ristoranti, e noi oggi vogliamo parlare di questo argomento per cercare di spiegare, cominciare a spiegare anche cosa sono gli additivi. Bene, prima di partire il numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Bene, nella categoria degli additivi cosa c'è? Andiamo a vedere subito questo. E ci sono coloranti, conservanti, antiossidanti, emulsionanti e così via. Quindi l'additivo non è un qualcosa così di effimero o qualcosa di peculiare, ma nella categoria ci sono svariate cose. E allora, proprio per cominciare a capire sugli additivi, appunto questa gamma di prodotti, innanzitutto a che cosa servono e poi se servono e poi in quale dose possono essere consumati, io comincerei da il professor Dario Bressanini, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Chimiche ed Ambientali dell'Università Insubria. Buongiorno Bressanini. Ciao Davide. Allora, vogliamo cominciare a spiegare appunto gli additivi. Che cosa sono gli additivi? Allora, la legislazione europea definisce come additivi un certo numero di sostanze, c'è un elenco da cui si possono prendere queste sostanze, sono circa 400, quindi sono abbastanza poche. Sono quindi sostanze che non hanno, la legislazione europea le definisce come sostanze che non hanno proprietà nutritive in sé, cioè non vengono usati come alimenti da sole, però vengono aggiunte intenzionalmente agli alimenti per motivi, diciamo, tecnologici, possono servire per vari motivi. Come giustamente detto tu, ci sono all'interno degli additivi varie categorie, ci sono i coloranti che servono per dare un colore particolare all'alimento, ci sono, non so, gli edulcoranti, cioè i dolcificanti che troviamo spesso nelle bevande o al bar quando qualcuno non vuole usare lo zucchero, ci sono i conservanti che servono per appunto conservare i prodotti diciamo, per un certo periodo, e poi ci sono tutta una serie di altre, diciamo, di altre sostanze, non so, gli antiossidanti che servono per evitare l'ossidazione, il deterioramento degli alimenti, e tutta una serie di altre, diciamo, categorie. Ecco, Dario, ci sono state appunto queste irruzioni, non si sa quali sono stati i risultati, sono andati da moltissimi chef famosi, stellati, alcuni che erano stati messi, diciamo così, anche sotto inchiesta da Striscia la Notizia. Quindi mi chiedo cosa possono aver trovato. Non è che voglio che tu faccia l'indovino, voglio semplicemente capire che cosa c'è, diciamo, fuori legge, fuori regola, che possono aver trovato i NAS facendo questa così inchiesta sugli additivi. Allora, chiariamo subito che tutti gli additivi che vengono utilizzati, non solo nei ristoranti, ma nella stragrande maggioranza dei prodotti che possiamo comprare in un supermercato, ecco, sono tutte sostanze che sono ammesse dalla legge in certe dosi, quindi, e non sono, diciamo, i NAS che determinano se una sostanza è tossica o meno, c'è l'EFSA, cioè l'Agenzia Europea, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, e c'è tutta una procedura molto, molto elaborata. Per ogni additivo che viene utilizzato c'è un suo dossier, si conoscono, si sono fatte tutta una serie di prove tossicologiche, e da queste si è ricavata, diciamo, quello che viene chiamata la dose giornaliera accettabile. Bene. Quindi sono molto controllati. Quindi, per quello che posso capire io, i NAS possono avere trovato dei difetti di forma, per esempio, non so, un'etichetta che non era stata tradotta in italiano, piuttosto che la mancanza, non so, della data di scadenza o cose di questo genere. Cioè non possono intervenire su, diciamo, una tossicità, perché questi sono tutti additivi ammessi, ecco, nelle dosi previste dalla legge. Rimani con noi, sentiamo già un radioascoltatore, Alessandro da Mantova. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, sono Alessandro, appunto chiamo da Mantova. Ascolti, io volevo portare la mia esperienza come, diciamo, tra virgolette, operatore del settore, perché lavoro in una software house che fornisce software di tracciabilità per tutto il settore agroalimentare, eccetera. Ecco, secondo me è importante definire il concetto di additivi ben nel dettaglio, perché secondo me la normativa, o quantomeno le etichettature, non sono spesso chiare. Mi spiego meglio. Alla recente fiera, tanto per non fare i nomi, dell'Eurocarne 2009, c'era un'impresa che presentava dei prodotti che non so se siano definibili come additivi o meno, ma comunque erano delle sostanze che potevano essere utilizzate e venivano espresse proprio come tali, per non affiancarsi, ma addirittura sostituire la carne oppure l'uso del formaggio, eccetera. E tra l'altro, e questo chiunque partecipasse, fosse presente come visitatore o come standista, lo può confermare, veniva esposto il fatto che di alcuni di essi non era necessaria l'indicazione in etichetta, poiché si trattava, mi sembra, di un processo tecnologico per la costruzione, eccetera. E tra l'altro questa stessa indicazione l'ho vista anche poi visitando successivamente il sito internet di questo produttore, di cui ovviamente non faccio il nome, però alla fine sono due o tre quelli grossi in Italia, quindi non credo sia molto difficile da indovinare. Quindi volevo appunto chiedere a lei e ai suoi ospiti cosa ne pensate di questo tipo di strumenti. In pratica, e concludo, mi riferisco in particolare a cose tipo il meat extender o il meat substituter. Bene. E cose di questo genere. Bene, io devo dire, innanzitutto ricordo ancora il numero verde 800 24 00 24, e invito a intervenire, il telefono è libero, quindi chiunque può intervenire, anche rappresentante di industria che vuole dire il proprio pensiero. Ma ora vorrei chiedere a Roberto Burdese, che è presidente dello Slow Food, cosa ne pensa lui di tutto quello che sta succedendo, perché anche questa incursione su 100 ristoranti italiani sembra che, diciamo, la punta dell'iceberg siano i ristoranti. Non so se è una falsa punta dell'iceberg e questo per dare un avvertimento, oppure che è molto più facile perché sono molto più noti magari di industria o di altro. Ciao a Roberto Burdese. Ciao Davide e buongiorno agli ascoltatori. È ancora difficile capire in queste prime ore i motivi veri di questo sequestro, se il motivo è le etichettature non precise dei prodotti, le mancate traduzioni di alcuni termini su queste etichette, allora probabilmente si sgonfierà un po' tutta questa faccenda. Diversamente è meglio attendere per dare dei giudizi. Il giudizio che abbiamo noi di Slow Food nel rapporto tra la tecnologia e quindi anche l'uso degli additivi e l'alta cucina è il rapporto che per fortuna è emerso da molti addetti ai lavori, molte persone del settore che hanno immediatamente lanciato l'allarme dicendo: non facciamo confusione, l'alta cucina fa un uso responsabile, consapevole e cosciente di quelli che sono strumenti che le permettono di lavorare meglio, che le permettono di esplorare nuovi territori, che le permettono di mettere a punto nuove tecniche che hanno come unico obiettivo quello di migliorare la qualità del prodotto finale che propongono all'utente. Non vanno confuse, secondo me, queste cose qui con il fatto che in alcuni ambiti della produzione, della grande produzione industriale, si fa un abuso di ciò che la tecnologia ci mette a disposizione, laddove come dire, la materia prima di partenza è talmente scadente che per ottenere un prodotto decente da immettere sul mercato dal punto di vista organolettico, di consistenze, di conservabilità e via dicendo, si deve fare un largo ricorso ad additivi e a tecnologie, perché se no non sarebbero in grado di mettere in commercio prodotti dignitosi. Ecco, sono due mondi completamente diversi. I grandi chef lavorano partendo da una materia prima d'eccellenza che continua a essere la dominante nel piatto finale e beneficiano di quella che la tecnologia ci ha messo a disposizione per raggiungere livelli che in passato non erano raggiungibili, con tecnologie, con procedimenti e attenzioni che sono del tutto nuove. Bene, grazie. Io volevo anche così dire che abbiamo cercato il INAS e stiamo aspettando una telefonata dal colonnello Amoruso, che è quello che, diciamo, è stato il responsabile di questa azione. Quindi io spero che il colonnello Amoruso si faccia vivo con noi, magari anche per parlare con lui di questo argomento, senza ovviamente voler conoscere il retroscena, ma capire il perché. Bene, continuiamo e ricordo ancora numero verde 800 24 00 24. Ricordo anche che chi vuol fare sms 349 238 6666. Abbiamo con noi uno chef molto giovane che si chiama Matteo Pisciotta, che tecnicamente è molto molto preparato. Volevo chiedere innanzitutto a Matteo Pisciotta, che è del Cade Sas di Besozzo, se ha avuto anche lui l'incursione. Davide, buongiorno. Buongiorno. No, io devo dire che no, non ho avuto nessuna visita da parte di NAS o niente, insomma, ieri sera è stata tutto normale, un venerdì normale. Diciamo. Bene, volevo chiedere, tu cosa ne pensi di questa, così, mettere sul banco degli imputati gli additivi? Perché bene o male poi abbiamo sentito da Bressanini alcune chiarificazioni appunto sull'uso, quello che conta sono le quantità e anche le informazioni, però mi sembra che un po' sia un po' la caccia alle streghe, cioè tutti gli additivi in questo modo e anche con inchieste passate vengono messi sul banco degli imputati. Tu cosa ne pensi? Ma io sono perfettamente d'accordo con lui e anche con quello che ha detto il dottor Burdese dello Slow Food. L'additivo è sicuramente un qualcosa che nell'alimentazione ai giorni d'oggi è presente, lasciando stare il discorso dei ristoranti. I ristoranti cercano sempre di perseguire un concetto di freschezza, di stagionalità, qualcosa che va completamente al di là dell'utilizzo degli additivi. Posso però dirti che gli additivi, se noi entriamo per sviscerare all'interno della giungla degli additivi le varie tipologie, ti posso dire che ci sono additivi tipo, non so, l'acido glutammico o il glutammato monosodico o i glutammati, che sono gli esaltatori di sapidità, che sono presenti in tantissimi semilavorati provenienti dall'industria alimentare, che in cucina non vengono assolutamente utilizzati. Il glutammato monosodico, l'acido glutammico in cucina, le cucine più attente, le cucine che sono, come a me piace definire, le cucine scientifiche, arrivano a produrre degli esaltatori di sapidità che sono perfettamente naturali, quindi al posto di usare il dado, quindi i glutammati, al posto di usare esaltatori di sapidità chimici, si può lavorare su determinati prodotti in determinate maniere per ottenere delle sostanze che sono perfettamente naturali, certo. Esaltatori di sapidità di altissimo livello. Bene, rimani con noi, sentiamo Fabio da Milano. Buongiorno Fabio. Buongiorno a tutti. Volevo intervenire, visto che ci avviciniamo tra l'altro anche alle elezioni europee, sui regolamenti europei che ultimamente sono stati approvati. Noi ci stiamo preoccupando degli additivi quando poi berremo vino non fatto da uva o berremo aranciata senza arance, cioè. Beh, l'aranciata senza arance è stata bloccata, questo regolamento, così pure probabilmente anche il bianco mescolato col rosso. Comunque prosegua pure. Sì, sul vino rosé sono d'accordo, sul vino non ottenuto da uva, certo, messo da altro, sarà possibile ottenerlo marchiandolo come vino. Ci stiamo preoccupando, secondo me, di un particolare molto importante, sicuramente, come sono gli additivi, quando poi alla base ci stanno portando via praticamente la base di quello che è il prodotto. Quindi se berremo un giorno veramente l'aranciata senza arance, piuttosto che questa secondo me la tendenza di quello che si sta vedendo, è un po' più drammatico che non pensare all'additivo, al glutammato o quant'altro. Ma mi viene in mente una battuta, la cavallinità di Socrate probabilmente. Probabile. Grazie Fabio, sentiamo Roberta da Bologna. Pronto? Sì, Roberta, buongiorno. Sì, ci la dica. Sento male perché sono in auto. Ma guardi, non deve sentire me, mi dica. Volevo dirle questo, gli aromi sono additivi? Questa è una domanda. E poi la seconda cosa, io ho un amico cuoco che mi ha versato qualche goccia di aromi in un bicchierino di polistirolo che immediatamente in pochi secondi si è distrutto. Questo cuoco ovviamente non li usa perché li ritiene una cosa... pericolosa. Volevo sapere che colore, se sono i moltissimi prodotti. Ecco, chiediamo, guardi, abbiamo Bressanini ancora con noi, gli chiediamo se gli aromi sono additivi, ma fanno parte, bisogna vedere appunto quali tipologie di aromi. Sentiamo Bressanini comunque. Allora, no, gli aromi sono una categoria a parte e seguono una legislazione a parte. Paradossalmente, appunto, si sente parlare sempre di additivi messi sotto, diciamo, accusa, sotto il microscopio, ma in realtà sono una categoria molto controllata, mentre la categoria degli aromi sono molti di più, sono circa 4.000 e se avete notato nelle etichette non c'è mai scritto il nome della sostanza chimica che viene utilizzata, c'è scritto generici aromi o aromi naturali. Questo perché la legislazione europea, che sta per essere cambiata, ma per ora è ancora, diciamo, quella vigente, non prevede, a differenza degli additivi, che ci sia una lista da cui prendere le sostanze, ma c'è solo una specie di lista in negativo, cioè elenca solo una serie di aromi che non si possono utilizzare. Per il resto siamo nel, diciamo, c'è una specie di vuoto legislativo. Solo nel 2010, nel 2011, la legislazione europea ha previsto di, diciamo, utilizzare un elenco esattamente come per gli additivi, cioè un elenco di sostanze più controllate. E anche per quel che riguardava l'ascoltatore di prima, anche altre sostanze che, come gli enzimi, altre cose che possono essere aggiunti ai prodotti, diciamo, alimentari, non rientrano nella categoria degli additivi. Quindi sì, c'è un buco legislativo che l'Unione Europea lentamente sta cercando di chiudere. Bene, grazie Bressanini. Sentiamo Lidano da Milano. Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno Davide, senti, secondo me anche la tua trasmissione sta aggiungendo un po' di confusione. Prego. Io vivo nell'alimentare da 40 anni e quello degli additivi è diventato da qualche decennio un argomento quasi da crociata, da approcciare con spirito religioso, e secondo me in questa trasmissione stiamo aggiungendo un mucchio di confusione. Avete parlato di ristoranti, avete parlato di aranciate, avete parlato dei NAS che hanno fatto ispezioni, pare, in 100 ristoranti. Bene, è un buon segno che lavorino e si dia da fare. Però fino a questo punto non ho capito cosa c'entrano gli additivi con questa ispezione dei NAS. Anche il discorso che ha fatto il presidente di Slow Food prima, se ho capito bene, si parlava di alta cucina, ma dello specifico degli additivi, dallo specifico degli additivi si stava ben lontani. Beh, secondo me, vedi, no? Se tu chiedi a mia moglie a cosa associa la parola additivo, lei vuol sapere se, guardando l'etichetta al supermercato, c'è scritto conservante, se le fa male. Non vuol sentir parlare di strani prodotti formulati, meat extender, non vuol sentire parlare di aranciate sintetiche, vuol parlare della normalità dell'alimentazione e sapere qual è l'effettivo impatto nella spesa e non nei ristoranti di alta classe degli additivi. Secondo me faresti bene a riindirizzare un po' la discussione verso un terreno un po' più pratico e vicino alla sensibilità del povero consumatore normale. Bene, caro Lidano, cioè, no? Perché i NAS abbiano fatto questa inchiesta io sicuramente non lo so e la mia trasmissione non lo può chiarire, se non il colonnello Amoruso, al quale ho chiesto di intervenire. E ancora, cioè, gli abbiamo lasciati i numeri sperando che intervenga, quindi ce lo chiarirà lui. Ma guarda caso questa inchiesta è stata fatta sulla ristorazione, quindi parliamo di questo. Se fosse stata fatta su alcuni prodotti alimentari avremmo parlato di prodotti alimentari. Se nelle etichette non c'è scritto cosa fa bene e cosa fa male, questo non è il problema di questa trasmissione, ma un problema di legislazione. Quindi credo che la confusione non sia sugli interventi che sono stati fatti, ma probabilmente sulla realtà, che è molto complessa. Comunque sentiamo Burdese, che è stato richiamato in causa. Roberto? Sì, noi abbiamo parlato di additivi perché sono quelli che gli chef usano e che gli sono stati contestati. Certo. Dicendo che, insomma, sembrava quasi che usare questi additivi fossero degli avvelenatori senza che noi lo sapessimo. Vai al ristorante, mangi, ti stanno avvelenando. Ecco, allora diciamo che non è così. Diciamo che ci sono dei vuoti legislativi, ma questo non c'entra col lavoro dei cuochi. Semmai di tutta questa riflessione possiamo ricavare qualche elemento utile. Fino ad oggi, che andava a mangiare in un ristorante come la Francescana di Massimo Bottura, che è stato il primo a essere messo sul banco degli imputati, era molto consapevole di che tipo di esperienza gastronomica andava ad affrontare. Chiaramente chi non ci va e ne sente parlare una volta in televisione non sa neanche di che tipo di cucina stiamo parlando, di che lavoro fa questo cuoco con le materie prime. Può darsi che questo sia, come dire, il momento in cui anche questi cuochi fanno un passo in avanti, magari nei loro menu vanno a esplicare meglio anche certo. il fatto che utilizzano alcuni additivi, non perché devono, come dire, difendersi dall'accusa di essere degli avvelenatori, ma perché una più ampia e trasparente informazione aiuta tutti. Dopo ripetiamo, il lavoro che fanno i grandi cuochi, personaggi come Massimo Bottura, è un lavoro che unisce all'estetica l'etica, questo è l'elemento fondamentale. Se i due elementi non vanno di pari passo, allora siamo in un territorio, come dire, pericoloso, perché se chiaramente per raggiungere un obiettivo che sia di natura industriale o di natura artigianale con il prodotto finale non si bada all'aspetto etico e quindi si abusa di prodotti chimici o anche semplicemente di materie prime che non andrebbero utilizzate in generale, allora lì si sconfina, al di là di quello che dice la legge, si sconfina in un territorio che non è più condivisibile. Bene, sentiamo Stefano dalla provincia di Venezia. Buongiorno Stefano. Sì, buoni Davide, vi ascolto molto volentieri spesso. Io sono chimico, ho un'esperienza di CNR di 38 anni. Allora c'è una sottile diffusione, cioè questione semantica sugli aromi naturali, cioè che non vuol dire che siano gli aromi che ci sono in natura, ma sono aromi che assomigliano a quelli naturali. Purtroppo questa differenza che viene si vede spesso sulle sue etichette crea delle confusioni, cioè sulle caramelle c'è scritto aromi naturali, non vuol dire che siano effettivamente estratti naturalmente dal prodotto, ma sono simili a quelli che esistono in natura e danno la stessa formulazione. Quindi è un grosso inganno questo? Questa è una bassa scelta di non fare una differenza, appunto, semantica, comincio a dire naturali o simili a quelli naturali. Bene, grazie Stefano della precisazione. Giovanni da Milano, buongiorno Giovanni. Buongiorno a lei, grazie della possibilità di intervenire. Ecco, io vorrei parlare di gelati. Quando cammino, mi avvicino a una gelateria, vedo sovente questa massa di colore che viene avanti. Dico massa perché... Sono con lei su questo, sono con lei. Ci sono due cose, cioè il colore e poi la massa. Cioè, io il gelato me lo faccio a casa e quando noi facciamo il gelato con le materie prime, seguendo tutto, cioè non si gonfia, non c'è una massa, ma il gelato è tranquillamente, chiamiamola una leggera lievitazione, ma che non ha nulla a che vedere, ripeto, con la massa che io vedo nella gelateria. Mi domando, è giusto che vengano messi in commercio prodotti con questa parvenza e con questi contenuti? Quali benefici può avere oppure quali non benefici può avere l'organismo? Bene, io la ringrazio perché poi sui coloranti interverremo, però ora devo passare la linea alla regia. Ringrazio Dario Bressanini, Roberto Burdese e Matteo Pisciotta. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di additivi nelle varie accezioni. Diciamo che questa trasmissione nasce anche da questa, diciamo, operazione voli pindarici fatta dai NAS in un centinaio di ristoranti. Vogliamo cercare di capire appunto cosa sono gli additivi, a che cosa servono e in quale dose possono essere consumati. Bene, io vorrei cominciare, abbiamo un ospite, il dottor Paolo Stacchini, ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno dottor Stacchini. Buongiorno. Volevo cominciare da lei a chiederle questo. Ci sono dei limiti ovviamente che quando questi additivi possono nuocere alla salute, ma ecco, ma chi li conosce? Si possono conoscere? Si devono indicare in etichetta? Diciamo, devono essere resi comuni a chi consuma un cibo o chi mangia un piatto? Guardi, io ho sentito la vostra trasmissione fino adesso e credo che sia opportuno fare chiarezza su un paio di punti. La legislazione comunitaria in materia di additivi alimentari è una delle più complete. È una legislazione che armonizza in tutti i paesi dell'Unione i criteri di valutazione di queste sostanze, cioè quella valutazione che precede la possibilità di impiego. Noi siamo quindi in presenza di sostanze che possono essere utilizzate esclusivamente dopo un'accurata valutazione di carattere tossicologico. E un altro aspetto che spesso non viene preso in considerazione è quello della necessità tecnologica, cioè noi possiamo utilizzare queste sostanze solo se sono sicure e necessaria dal punto di vista tecnologico. Inoltre, se vogliamo suddividere gli additivi da un punto di vista per facilitare la comprensione, queste sostanze le possiamo dividere in due grandi aree. Quelle sostanze che a seguito della valutazione tossicologica sono risultate assolutamente sicure, e queste sostanze possono essere utilizzate nella produzione alimentare, ad eccezione di alcuni casi, però in generale senza dose massima definita. In altre parole, c'è proprio una definizione che dice secondo buona tecnica industriale. In altre parole, nell'ambito della produzione dell'alimento vengono impiegate queste sostanze che, ripeto, sono state valutate assolutamente sicure nella maniera che è idonea da un punto di vista della necessità tecnologica. Ci sono altre sostanze invece che a seguito della valutazione tossicologica sono risultate necessarie di un'indicazione di limite massimo, e così è ad esempio per i conservanti più utilizzati, pensi all'anidride solforosa, ai nitrati e ai nitriti. Queste sostanze possono essere utilizzate a dosi massime definite e per campi di impiego molto limitati. Scusi, la interrompo un secondo, guardi, perché mi è arrivato ora proprio un SMS di un radioascoltatore che mi chiede: nitriti e nitrati sono additivi? Certamente sì, sono tra gli additivi tradizionalmente più utilizzati. Certamente nei salumi, e vengono utilizzati. La vecchia definizione era quella di conservativo ad azione secondaria, perché aveva un'azione che era conservativa perché protegge dal rischio di presenza del Clostridium botulinum, che dà luogo poi a una tossificazione molto pericolosa. E poi anche intervengono nelle caratteristiche organolettiche del prodotto, perché si forma un pigmento rosso stabile, che è la nitrosomioglobina, che conferisce quel colore caratteristico al salume. Bene, grazie. Rimanga con noi, dottor Stacchini. Sentiamo Gerardo da Roma. Sì, buongiorno. Mi dica. Senta, complimenti per la trasmissione. Io sono un po' emozionato perché è la prima volta che intervengo. Prego, prego. Volevo dire che anch'io nel mio piccolo magari leggo sempre le etichette, e il numero di additivi più sconvolgente si trova sul banco dei supermercati, quando si prendono dei prodotti e ci sta e che non finiscono mai, tantissime. Io mi trovo in possesso di un volantino distribuito dal centro di antitumori, dove una grossa fetta di additivi sono dati come tossici proprio. E sono parecchi, sono almeno una ventina, quindi questo già è molto indicativo, questa cosa. E il glutammato monosodico, che è l'E330, è il più pericoloso. Bene, ce ne lega qualche d'un altro? E poi quelli coloranti, l'E102, il 110, il 120, arrivare fino all'E450, quindi sono tantissimi. E più poi moltissime marche di grandi industrie, diciamo, da bibite, aperitivi, dolciumi, che sono segnalati come pericolosi. Questo è, mi scusi, il centro antitumori di dove? Di Aviano, dove ci sono molte di quelle, okay, delle marche che noi consumiamo, che troviamo al supermercato, che sono date come pericolose. Bene. Quindi, molte cose poi, perché mangiano anche i bambini, che la cosa è ancora più preoccupante, perché sono in una fase di sviluppo e di formazione, e si trovano a mangiare tutte queste cose che non sono assolutamente salutari. Bene, facciamo intervenire anche la professoressa Patrizia Restani, docente di chimica degli elementi in statale a Milano. Buongiorno, professoressa Restani. Sì, buongiorno. Ha sentito questo nostro radioascoltatore che ci leggeva questo volantino. Lei cosa ne pensa? Sì, io innanzitutto mi allineo molto all'intervento precedente del dottor Stacchini, che peraltro saluto, e che certamente già vi ha chiarito un po' le idee. Tutte queste informazioni che noi troviamo in tantissime forme, da internet a volantini a altre fonti alternative, vanno sempre prese con molta cautela. Come vi ha già detto il dottor Stacchini, qualunque additivo sul mercato venga autorizzato è assolutamente per definizione sicuro e deve essere usato solo nelle condizioni previste dalla legge. È ovvio che bisogna fare chiarezza, non bisogna indurre nel consumatore il terrore dell'additivo in sé, perché, ripeto, gli studi, come vi hanno già detto, ne garantiscono la sicurezza. È il cattivo uso, semmai, che potrebbe essere un problema. Il cattivo uso che può andare nelle cose più disparate. Abbiamo sentito tanto parlare di questi ristoranti molecolari, anche qui non bisogna fare di tutto un'erba un fascio. È ovvio che se io costruisco un piatto utilizzando solo additivi, faccio due cose illecite. Una, vendo un prodotto di basso costo al prezzo magari del pesce o della carne, quindi qui già faccio una truffa al consumatore. E poi il consumatore non è a conoscenza, perché magari non è in grado di capirlo, non sa quanto ne consuma, e a questo punto entra il problema che diceva precedentemente il dottor Stacchini. In alcuni casi, per alcuni additivi, ci sono delle dosi previste per legge. Quindi nel momento in cui un ristorante ne usa quanto ne vuole, a questo punto diventa un po' oscuro. Ecco, io la interrompo per dire questo, che questa è una mia opinione personale, che purtroppo si sono presi di punta i ristoranti più noti, questo evidentemente per far rumore su questa questione, però io sono convinto che questi chef sappiano benissimo quali sono i limiti, mentre ho paura che ci siano coloro che copiano, che cercano di imitare questi grandi ristoranti che hanno avuto dei grandi risultati sui media, sulle classifiche o d'altro, che siano meno preparati all'utilizzo di questi prodotti. Questa è un po' la mia impressione. Ecco, io credo che, io spero che, spero che nei 100 di operazioni voli pindarici non ci sia solamente il gotha della ristorazione italiana, ma si sia andato a vedere anche altre tipologie di ristoranti. Comunque rimanga con noi. Sentiamo Mario da Napoli, buongiorno. Pronto, buongiorno. Senta, io ho accennato già che la cosa fondamentale che vorrei capire da questa situazione, mi pare che il tecnico che ha spiegato che la salubrità dei prodotti additivi e la necessità di uso, la cosa andrebbe ricondotto al prodotto industriale che io compro liberamente nel supermercato, leggo quello che c'è e faccio la mia scelta. Nel ristorante io non mi aspetto di trovare le lasagne o gli spaghetti al pomodoro dove il colore del pomodoro è stato intensificato con un colorante. Dovrebbero esplicitarlo allora in lista. Bene. Come mettono l'aggiunta del, non so, della grattata di prodotto straordinario, mi pare che sia il consumatore debba sapere che vengono utilizzati. Io non me lo immaginavo. Bene, grazie. Ritorniamo alla professoressa Restani. Beh, secondo, io volevo chiederle perché si usano in fondo gli additivi, se ne potrebbe fare anche a meno. Allora, come appunto anche l'ascoltatore appena ha sottolineato, gli additivi si usano quando servono, perché questo è la legge prevede, non è che si usano gli additivi così a caso. Intanto, per intenderci, il latte che ha dei sistemi di conservazione fisici, che sono la pastorizzazione o la sterilizzazione, ben efficienti, non hanno assolutamente bisogno di additivi, infatti sono vietati. Quindi l'uso degli additivi deve essere giustificato dallo scopo. Capisco che quando parliamo di un colorante, qui l'uso necessario sfugge, a parte che vengono regolamentati anche da legislazioni un po' differenti, però purtroppo il colorante a volte ha un impatto sul consumatore importante. E vi faccio velocissimamente qualche esempio: gli aperitivi bianchi sono stati un flop commerciale perché non piacciono al consumatore. Se andiamo a acquistare lo sciroppo di menta bianco non piace perché pensiamo che sia verde, e quindi esiste un uso che comunque deve essere sempre assolutamente sicuro di alcuni additivi che non sono veramente necessari, però la stragrande maggioranza degli additivi usati hanno un ruolo di conservazione o tecnologico e comunque devono sempre tenere presente la sicurezza del consumatore. Certamente l'ascoltatore ha detto, ovviamente, se io vado in un ristorante e mi mettono un colorante nel piatto, questo non lo so, e questo giustamente dovrebbe essere indicato. Se poi mi permette, vorrei fare anche un altro piccolo punto, che secondo me poi riguarda, innanzitutto sono d'accordo con lei che non bisogna fare di tutto un erbo un fascio, che ci sono anche nei ristoranti dei professionisti che lavorano seriamente e non vanno puniti per altri che invece fanno cose illecite. Un aspetto importantissimo è la qualità degli additivi che si usano. Gli additivi devono rispondere a delle qualità, quindi non ci devono essere contaminanti, non ci devono essere sostanze tossiche, che non è la molecola dell'additivo in sé, ma qualche altra cosa che ci potrebbe essere dentro. La legge stabilisce le caratteristiche di qualità. È evidente che l'azienda alimentare si approvvigiona da fornitori ben precisi che ne garantiscono la qualità. Se io vado al ristorante, non so bene dove vengono magari acquistati questi prodotti, e se la persona che utilizza questi ingredienti non è estremamente una persona che guarda alla qualità ma più che altro al soldo, è facile che vada a comprare questi additivi in un mercato non ben chiaro, dove il prodotto potrebbe anche non essere a quel punto accettabile, capisce? il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di additivi. Purtroppo questa mattina non riusciamo né a collegarci col colonnello Amoruso, l'autore dell'operazione Voli Pindarici, né con Massimo Bottura, che sembra quello messo proprio sulla gogna. Ogni tanto si riparla sempre di lui e delle varie incursioni che sono state fatte. Io spero che Massimo riuscirà a mettersi in contatto con noi. E così pure il colonnello Amoruso prima della fine della trasmissione. Ricordo il numero verde 800 24 00 24. Sentiamo Felice da Milano, buongiorno radioascoltatore. Buongiorno, buongiorno. Senta, volevo intervenire sulla sua affermazione che ha un po' banalizzato l'intervento del chimico, che spiegava con precisione che aromi naturali non vuol dire che questi aromi sono naturali, ma è evidentemente una truffa contenuta all'interno della legislazione nei confronti del consumatore. E mi sembra che questo sia il cuore del problema, non possa essere liquidato semplicemente come una precisazione. Questo perché mi è capitato anche in altre occasioni, per esempio la scorsa settimana, di sentire una trasmissione sul vino biodinamico in cui non è fatto intervenire nessun contadino o viticoltore biodinamico. Guardi che è intervenuto, il Stanco Radicon è un viticoltore biodinamico. No, non è un viticoltore biodinamico perché non è certificato e questo. Ma faccio viticoltore biodinamico in Monferrato e conosco. È intervenuto però il responsabile di Demeter, che ha spiegato di che cosa si trattava. Quindi l'intervento da Parma del responsabile di Demeter. Molto spesso prescinda dal fatto che ci sono delle potenti lobby che guidano le leggi e le condizionano, sia inserendo dei termini ambigui, volutamente ambigui per confondere lo spettatore, e sia ovviamente per fare i propri interessi economici. Questo mi sembra assolutamente fondamentale da rilevare all'interno di un programma che sia un programma di informazione. Bene, sentiamo Stacchini a proposito della sua prima parte della domanda. Sì, guardi, io veramente intervengo con piacere per chiarire questo punto. Perché indubbiamente, per quanto concerne il problema relativo alla corretta informazione al consumatore in merito agli aromi, che sottolineo è materia diversa da quella degli additivi, esisteva fino a oggi un elemento di poca chiarezza. Perché? Perché quando noi definivamo in etichetta aroma naturale, in realtà potevamo includere sia l'aroma naturale propriamente detto, cioè quella sostanza chimica che proviene per un processo di estrazione o per qualsiasi altro processo tecnologico da un mondo naturale, cioè dal mondo vegetale o dal mondo animale. E anche, fino ad oggi, potevamo chiamare aroma naturale il cosiddetto aroma naturale identico, cioè quella sostanza che aveva la stessa struttura chimica dell'aroma naturale, ma che era ottenuta per via di sintesi chimica. Con il nuovo regolamento comunitario, però, che prende in esame anche l'etichettatura dell'aroma nell'ambito del suo utilizzo nel prodotto alimentare, questo problema è superato ed oggi può essere chiamato aroma naturale, quindi è bene chiarire al consumatore che aroma naturale riguarda l'aroma ottenuto per via naturale, l'aroma che è di origine naturale sicuramente. Questo è un superamento importante invece di un qualche cosa che creava quei meccanismi di confusione che giustamente le persone che sono intervenute avevano messo in evidenza. Quindi bene, oggi abbiamo un regolamento che chiarisce: se noi troviamo in etichetta aroma naturale ci riferiamo a una sostanza di origine naturale. Se troviamo invece aroma, l'aroma può essere di sintesi naturale. Di conseguenza è ovvio che chi è che usa aromi naturali ha tutto l'interesse a chiamare in etichetta il prodotto aroma naturale. Bene, grazie Stacchini. Sentiamo ora sul discorso coloranti, coloranti naturali e coloranti non naturali. Micaela Viganò, responsabile del settore alimentari biochimici, ci vuole fare questa differenza? Sì, buongiorno. Allora, io vi spiego innanzitutto che ci sono dei coloranti naturali che quindi derivano principalmente da fonti vegetali e dei coloranti sintetici che invece sono prodotti per sintesi. A livello legislativo non viene comunque fatta distinzione tra i coloranti naturali e i coloranti sintetici, perché vengono comunque considerati tutti degli additivi che hanno appunto un numero E, e il numero che caratterizza i coloranti è quello compreso tra il 100 e il 180, però non vi è l'obbligo di indicare appunto in etichetta se il colorante è naturale oppure sintetico. Solitamente lo fa il produttore quando magari vuole dare appunto risalto al fatto che utilizza dei prodotti di origine naturale. Quindi diciamo che il consumatore, l'unico modo che ha per capire se un colorante è naturale o sintetico, studiarsi il numero e vedere appunto l'origine del colorante. Bene, grazie. Sentiamo un radioascoltatore, Alessandro. Sì, buongiorno Davide. La domanda è, il mio problema è il cumulo di queste sostanze. Cioè, per alcuni stili di vita a volte si deve mangiare un primo, un secondo, con additivi. Lo faccio oggi, lo faccio domani. Il cumulo non diventa pericoloso, è vero che ogni cosa è stato dato un tetto massimo, ma se io poi lo accumulo, bene, questo non diventa un problema, grazie. Professoressa Restani. Questa è una domanda veramente interessante e anche qui è importante far chiarezza. È evidente che i numeri stabiliti dagli enti tossicologici, quindi dai comitati tossicologici che valutano gli additivi, tengono in considerazione gli effetti, gli studi anche a lungo termine, quindi vengono fatti degli studi a lungo termine proprio per dimostrare che anche un'assunzione per tutta la vita non darà un effetto avverso nel consumatore. Quindi i valori che vengono stabiliti e l'uso quindi degli additivi in conseguenza tiene assolutamente conto del fatto che noi li possiamo usare per tutta la vita. Quindi da questo punto di vista il consumatore, cioè il vostro ascoltatore deve stare tranquillo. Bene, grazie. Ora abbiamo con noi il professor Cassi, Davide Cassi, che è stato uno dei teorici della cucina scientifica. E a lui voglio chiedere, Davide, ma perché questi chef usano gli additivi? Abbiamo visto cosa comprende questa parola, ma c'è una motivazione vera e propria in questa cucina molto particolare che viene chiamata, come tu dici, ben dici, non correttamente molecolare, ma perché vengono usati? Ecco, ciao Davide, anche grazie della domanda perché è particolarmente intelligente. Ti spiego perché. Si è parlato a lungo dell'utilizzo proprio di questi additivi, però in ambiente industriale. Ora, i grandi cuochi, parlo veramente dei grandi, da Adrià in poi, non usano gli additivi con la stessa funzione che queste sostanze hanno nell'industria. Li usano per creare nuove sensazioni gastronomiche. È il caso, per esempio, di gelificanti, emulsionanti e via dicendo. Tu conosci per esempio le arie che ha inventato Ferran, erano qualcosa che non esisteva nella nostra gastronomia e in questo modo hanno dato origine a piatti e tecniche nuove, utilizzando in modo innovativo e intelligente sostanze che nell'industria venivano utilizzate con un'altra funzione. Quindi è importante che queste sostanze siano utilizzate con finalità creative, chiaramente sempre nel rispetto della salute e della sicurezza. Quindi cioè, il motivo principale è anche quello così, cioè di prendere delle, se vogliamo, delle esperienze delle aziende e portarle poi in cucina e farle diventare creative. Questo è il fondo, mi sembra di capire. Certo, reinventarle, non usare queste sostanze così come le usano le industrie. L'esempio delle arie mi piace molto. Un esempio che faccio spesso nelle lezioni di cucina scientifica è quello dell'aria di limone. Se tu prendi un pesce delicatissimo, fai una sogliola e lo costavi di gocce di limone, mi uccidi il sapore perché la concentrazione è troppo intensa. Se tu me lo ricopri con un'aria delicatissima di limone, l'aria è una schiuma estremamente rarefatta, riesce a dare questo sentore di limone naturalissimo senza andare a distruggere il sapore delicato della sogliola. Quindi questo è un grande utilizzo intelligente dal punto di vista gastronomico. E mi sembra che tra i piatti messi sotto accusa del buon Bottura, che appunto non siamo riusciti a trovare, non risponde ma non prende assolutamente il cellulare, sia l'aria di parmigiano. Per esempio, allora spiegami che cosa c'è di così pericoloso in un'aria di parmigiano. Ora, le arie si fanno normalmente o con la lecitina di soia in piccolissime dosi, oppure nel caso di quelle fatte con prodotti caseari o latte ci si possono utilizzare anche le proteine di siero del latte. Ora sono sostanze assolutamente naturali, la sembra utilizzare perché sono estratte da prodotti naturali e in molti casi sono anche buone. Bene, grazie. Grazie a Davide Cassi, al dottor Stacchini, alla professoressa Restani e a Michela Viganò. E adesso continua il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Buon weekend da Davide Paolini.